c'è un posto in Colombia, un posto Loma Linda negli Stati Uniti, tutti quanti hanno la dieta cereali, frutta e verdura, c'hanno tutti quanti dei fortissimi legami sociali, che non è solo familiare, attenzione ovviamente, ma è la vita della comunità, interscambio, protezione e le spalle coperte. Grazie professore, prima di chiudere questa pagina organizzata come sempre da Sara Tardelli e avere un po' di allegria, chiudiamo con questa canzone dei Queen, come ci ha suggerito un nostro follower di Mix 24 che noi seguiamo questa volta bruciamo Pietrangelo. There's no chance for us. Mix 24. Rovinò lungo la china, solo chi ha un destino rovina. Non voglio che l'impuro ti colga. Pietrangelo, sì, questa è roba tua? Sì. Niente come sembra, di Franco Battiato. Niente come sembra, anche perché questo trafficare con le cellule, con la vita, con l'idea di un'eternità, ci riporta all'antica scommessa che l'uomo ha sempre sottoposto al demonio in persona. C'è Faust, c'è Mefistofele e c'è quell'antica idea di poter dare all'eternità un senso quasi di adolescenza eterna. Posso rendere omaggio alla memoria di un dolcissimo farmacologo che non c'è più. Umberto Scapagnini. Che fu il medico di Silvio Berlusconi, l'inventore della mitica pillola. Che gli prometteva i 120 anni, anche lui, insomma. È un grande farmacologo che comunque inventò l'allegria della pillola, e non diciamo quale. Ecco, sono le 9:33 e 15 secondi, il nostro numero lo ricordo, 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Che cosa bolle in pentola? Allora Mario, che cosa bolle oggi in pentola? Un sacco di cose. Vabbè, dell'Italia sappiamo, no, che ci sono vari problemi nella maggioranza per la decadenza con voto palese in aula a questo punto del senatore Berlusconi. Ecco, ma secondo te, scusa Mario, sì, per essere concreti, l'abbiamo detto un po' all'inizio ma vorrei ripeterlo, questo voto gli allunga la vita politica, gliela accorcia? Ricominciamo di lì. Ma dunque, gliela allunga perché Berlusconi A è un combattente, B a questo punto ha solo da guadagnare in una tenzone in aula, cioè in una rappresentazione per cui per lui è stata, diciamoci la verità, prodotta una norma ad personam. È abbastanza incredibile, perché sì. Ma è un voto per insomma, lui che ha fatto fare tante leggi a sì, persona, ma questa volta ne ha subita una. È il contrappasso. Contrappasso, non solo questo procedimento logico che suggerisci tu Giovanni, ma ce n'è anche un altro risvolto, e cioè che a populismo si risponde con populismo, sì, e mezzo, perché è ovvio che un altro senatore non avrebbe avuto mai questo procedimento, mai. Si sarebbe votati sicuramente a scrutinio segreto. Sì. Oltretutto è contro il regolamento del Senato. Ma no? Sì, contro la consuetudine, però quelli hanno da dare degli ossi alla canea montante dell'opinione, sì, pubblica. E siccome chi sbraita ha necessità di essere placato, allora l'unico modo è quello di fabbricare questo sacrificio. Ecco, ma dal punto di vista politico è un voto per andare alle elezioni in qualche modo oppure sì. No? Cioè, è un regalo sì. Al partito delle elezioni. È un regalo sì. Al partito sì, delle elezioni. Diciamoci ancora una volta la verità, quella commessa dalla giunta ieri è una sciocchezza politica incredibile, perché se tu vuoi far cascare il governo, questo è il modo migliore per farlo, e quindi qui anche il PD ha delle grandi responsabilità, cioè, mi chiedo cosa stiano pensando. Beh, ma forse anche nel PD, io penso che anche nel PD ci siano come? Due partiti. Beh, c'è un partito che è per le elezioni Renzi. Anticipate che Renzi che certo. Dice no, ma forse pensa sì, e quindi diciamo si uniscono due c'è volontà, cos'è una saldatura che vedremo che cosa darà, ma intanto il PDL si spaccherà oppure non si spaccherà? Dunque questa è la seconda fase, diciamo. La prima fase è espulsione di Berlusconi dal Senato. Scusa abbiamo Fabrizio Cicchito al telefono. Onorevole Cicchito, buongiorno, grazie buongiorno. Di essere con noi. Stavamo discutendo proprio di questo, cioè? Abbiamo parlato della vita allungata fino a 120 anni fino adesso, parlavamo di medicina e vogliamo sapere questo voto allunga la vita fino a 120 anni di Berlusconi, la sua vita politica, oppure no, secondo lei intanto? Guardi, io mi auguro comunque che la vita personale di Berlusconi vada a quei livelli lì, sì. Del resto c'era stato un suo medico amico, il professor Scapagnini, ne abbiamo parlato, infatti, purtroppo sì. Deceduto, che sì. Aveva fatto previsioni assolutamente straordinarie. Venendo alla politica, vede, reputo che quello che è avvenuto ieri sia stata una assoluta boiata, nel senso che c'è un articolo del regolamento del Senato che è inequivocabile, dice che il voto segreto sì, infatti. Comunque, quindi è stata fatta una incredibile forzatura. Una votazione ad personam. Sì, per molteplici ragioni. Quella più meschina è quella della Lanzillotta, che per un verso ha condotto una partita tutta interna a Scelta Civica e allo scontro senza esclusione di colpi fra Casini e il professor Monti, il quale evidentemente non perdona a Berlusconi che gli ha consentito di stare al governo per un anno. Poi, voleva starci di più? No, beh, quello non c'è entrato Berlusconi, c'è entrato poi, è finita una legislatura, certo. E lui aveva fatto già abbastanza guai. Quindi insomma, problemi interni a Scelta Civica molto sì. Modesti, diciamo, sì, no? Molto mi sembra. Modesti come... La Lanzillotta che cosa voleva esattamente dentro? La Lanzillotta voleva colpire Casini, okay. Che in quell'area aveva già detto che lui era per il voto segreto. Perfetto, secondo punto. Secondo punto, il problema del PD. Il PD, ci stanno secondo me due elementi nel PD. Un elemento ed è che il PD non sopporta una contestazione da parte del Movimento a 5 Stelle sul terreno dell'antiberlusconismo. E quindi vogliono l'egemonia, insomma, e non quindi, si può essere più antiberlusconiani del PD. Poi c'è una parte del PD che gioca una sua partita che non precostituita, ma se si offre l'occasione la coglie al volo, e cioè che se Enrico Letta va in crisi, il governo di Enrico Letta insomma, va in Renzi crisi, vuole le elezioni, se si può vorrebbe andare alle elezioni, fare un pieno per cui diventa nello spazio di poco tempo sia segretario del partito e candidato, premier, preferirebbe non gli dispiace. Ecco, ma nel PDL adesso si voterà compatti o no, che il voto è palese? Distinguiamo le cose. La compattezza del PDL sul voto è fuori di ogni discussione, come è fuori di ogni discussione la comune condanna di questa forzatura che è insieme d'accordo. Brutale e stupida. Ecco, ma se si vota insieme Sulla decadenza il PDL, sì. Come fa poi qualcun altro di voi, non so lei da che parte sta ancora, perché me lo spiega, come fa poi a restare al governo, no, se questa è una porcata? Allora, glielo spiego, io sono tra quelli che sostiene che noi ci troviamo di fronte a una serie di provocazioni, una è stata quella delle elezioni della Bindi, l'altra è questa. D'accordo. E così via, ma guai a noi se cadiamo in questa provocazione, nel senso cioè che a mio avviso il nostro elettorato ci chiede da una parte di sostenere Berlusconi e di solidarizzare con lui in questo e dall'altra la stabilità. Allora se noi una porcata così porcata poi in politica bisogna anche ragionare, perché se si ragiona con il fegato e non con il cervello, io voglio sapere si combinano dei grandi guai, anche perché quindi chi ragiona in un altro modo ragiona con il fegato e non col cervello. Vabbè, questa è una battuta che mi racconta. No, è molto spiritosa. Nel senso che io faccio questo ragionamento, cerco di farglielo il più breve e sinteticamente possibile. In primis, chi si assume l'onere di far cadere questo governo pagherà un prezzo rilevante, perché ci saranno sicuramente conseguenze sia sugli spread, sia sulla borsa, sia sul fatto che si determina un vuoto, perché non è che c'è alle viste, cade questo governo, c'è un governo più avanzato. Se cade questo governo, in primo si luogo va a votare. In primo luogo, voglio dire, i grillini giustamente festeggiano perché è la codificazione del fallimento sia che del PD che del PDL. In primo luogo. In secondo luogo, non si va subito a votare. Ma Perché Napolitano rimanda alle Camere il governo Letta? O rimanda alle Camere il governo Letta, o fa un governo di scopo con un unico scopo. Per fare la legge. Che è quello di fare la legge elettorale. Perché il Presidente della Repubblica ci ha detto in tutti i modi che lui non farà mai votare e quindi, con questa legge elettorale. Onorevole Cicchitto, no, perché siamo in chiusura. Io volevo capire, ma allora è probabile che uniti sul voto per Berlusconi, divisi successivamente? Ma io mi auguro che non saremo divisi successivamente. Cioè Berlusconi può darsi che cambi idea come l'ha fatto l'altra volta, all'ultimo momento? Io mi auguro che si stabilisca un rapporto tra Berlusconi e Alfano. In modo tale che comunque Berlusconi rimane il leader del nostro movimento e può parlare sia e stando può votare, che può non stando in Parlamento. Sì, questo e, certo. Alfano è la punta su cui noi lavoriamo per arrivare al 2015 in una situazione in cui se la giocano fra lui e Renzi. E quindi lei dice Berlusconi dovrebbe sostenere il governo anche se lui è fuori. Questo è per questa essere è chiari. Questa è la mia tesi. Sì, la sua tesi, certo. Capisco che è un pezzo politico, però visto che siamo sotto un bombardamento giudiziario che non si può smontare con un colpo di bacchetta magica, d'accordo. Provocando una crisi di governo che fa un favore agli altri e non a noi, io la vedo così. Quindi Berlusconi deve votare contro se deve spingere il PDL a votare contro se stesso, contro quelli che l'hanno ucciso. Contro se stesso, no. Contro quelli che l'hanno ucciso, diciamo. Non è che Enrico Letta sia il protagonista di questa storia, questa cosa ha dei risvolti che vanno pure contro Enrico Letta, parliamoci chiaro. Quindi un conto è il governo e un conto queste boiate che vengono fatte, che è stata fatta ieri, magari verrà ripetuta. Distinguiamo nettamente le cose, se no facciamo un ma è chiarissimo il suo pensiero, onorevole Cicchitto. Sono sicuro che lei lo capisce al volo e vorrei farlo capire anche a coloro che ci ascoltano. Grazie mille. Allora, mi pare che sia stato molto chiaro. Molto chiaro. Certo, l'agguato è doppio, quindi a Berlusconi e a Letta. Agguato doppio, e quindi si sono saldati, almeno così sembra di capire, il partito delle elezioni a fronti partitone, diversi. È un partitone. Mi sembra che sia un partitone. Qualche altra bolla ce l'abbiamo ancora? Abbiamo ancora qualche minuto? Ma guarda, te ne racconto una che secondo me è interessante. Di politica economica riguarda il Giappone, è la famosa Binomics. La cosa va, cioè gli stimoli della Banca del Giappone funzionano? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Il mercato immobiliare dice sì, però è salito del 19% in settembre, è il dato più alto degli ultimi due anni. Noi stiamo ai numeri in questo caso. Vabbè, no? Quindi la ripresa funziona. In Giappone la funziona. Fed ieri ha confermato la politica di stimoli monetari. Quindi, la strada diciamo, del Giappone è una strada interessante. Ecco, è da seguire, è da vedere. Poi naturalmente i risultati li potremo vedere contare dopo. Ecco, Pietrangelo, i tuoi salamini? Beh, un salamino d'egemonia culturale. Diciamo che fosse capitato per un altro personaggio, chissà, sarebbe scoppiata immediatamente la polemica. Al Festival di Roma, alla rassegna del cinema del Festival di Roma, è stato escluso un film su Enzo Tortora. È diventato un caso politico però limitato, un appello però limitato di PD, PDL, di radicali. Viene chiesto che sia proiettato alla Camera. Fosse capitato su un altro personaggio, immagino ci sarebbe oggi l'inferno, però è giusto ricordare, lo ricordiamo noi. Dunque, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti anche noi lo ricorderemo, perché uno dei prossimi giorni Marina Milone ha proprio preparato la storia di Enzo Tortora e quindi di quello parleremo anche noi per non dimenticare. Ricordo che oggi la storia in 3D è stata curata da Sara Tardelli. Dopo la viabilità è il momento di parlare di televisione di qualità col professor Giorgio Simonelli. Se volete segnalarci qualcosa lo ricordo, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, viabilità. Mix 24. Siamo a Mix 24 per scoprire dove era il canone ieri sera. Vi ricordo 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666, ma intanto Mario, ci sono ancora delle bolle importanti, sì, che devi raccontare. Saluto al professor Simonelli, buongiorno professore. Buongiorno professore. No, segnalo delle cose interessanti sul fronte economico. C'è un report del Tesoro americano che critica pesantemente le politiche economiche tedesche. Per esempio dice che in Germania pensano troppo al loro export, mentre la domanda interna europea langue e quindi tutto questo fa poi male all'economia mondiale. Insomma, è un tema, un dibattito che è molto forte. Se lo facessero gli italiani direbbero che sono euroscettici contro Francoforte, la BCE eccetera, e quindi anche contro Berlino e Merkel. In realtà, come vedi, riguarda tutti. L'altro aspetto è che ci sono segni molto interessanti sull'uscita dalla recessione. Ieri, ricordi, no? Abbiamo segnalato il caso della Spagna, però sono attesi i dati sulla disoccupazione in Europa e la media pare che resti invariata, 12%. Cioè il vero tema irrisolto è quello del lavoro. È il lavoro, quello è un tema che, non di cui non si riesce lavoro. A venire a capo, perché non anche c'è dove lavoro. C'è sviluppo non diminuisce l'occupazione. Non aumenta l'occupazione. Qua ecco. Ci sono temi giganteschi tipo l'efficienza sempre più grossa dell'automazione che riduce il lavoro, l'allungamento, quindi legato alla prima parte della nostra trasmissione, dell'età lavorativa. La gente va in pensione sempre più tardi. E la cosa interessante è che c'è stata una crescita dei posti di lavoro negli over 65 e diminuita verticalmente negli under 25. Cioè, si ritorna a far lavorare quelli più anziani. Noi stiamo creando un mostro. Un mostro di sviluppo, un modello di sviluppo. Un modello mostruoso, di sviluppo folle. Mostruoso. Pietrangelo, dov'era il canone ieri sera? Il canone ieri sera io me lo sono andato a cercare tra le pagine del nuovo libro di Eugenio Scalfari. L'hai trovato? L'amore, la sfida, il destino. Altro che, certo, fantastico. L'ho trovato. Interessante. Altrimenti ad accendere la TV chissà che spavento prendevo. E tu? L'hai trovato il canone ieri sera da qualche parte? Ma io ho guardato Milan-Lazio. Milan-Lazio, beh, delusione. È tornato al gol Kakà. Vabbè, è quello l'aspetto positivo per il Milan, perché siamo sempre ottimisti. Professor Giorgio Simonelli, so che lei è un gran tifoso. Di chi? Del Milan. Ah, e allora, ieri era soddisfatto? Insomma, non sono tempi felici, ma il gol di Kakà è, come dire, un raggio di sole era in questo autunno piovoso. Un po' consola, ecco. Dov'era il canone, professore? Ma il canone ieri è apparso molto tardi, direi, anzi quasi stamattina nel cuore della notte, verso le 2 ormai, quando sia Rai 1 sia Rete 4 hanno trasmesso rispettivamente Prova d'Orchestra e 8 e mezzo, cioè due film di Federico Fellini, perché oggi ricorrono i 20 anni dalla morte di Federico Fellini. E allora, insomma, ricordarlo degnamente è assolutamente indispensabile per il canone televisivo. Tutto però mi sembra ricordato poco, da quanto capisco da lei. Poco e tardi, forse l'unica eccezione era i Movie, che ieri sera, che questa sera farà in prima serata un film di Fellini, preceduto da una presentazione di Ettore Scola, che come si sa ha appena girato un film che è nelle sale, sulla, un film biografico sulla vita di Federico Fellini. E allora, insomma, non è la solita critica, la solita, solito rammarico, però forse se una rete avesse il coraggio, con il canone, di fare una serata, una prima serata dedicata, una serata Fellini, insomma, forse, raccontando tutta la sua opera, Omnia. No, anche perché, forse lei lo ricorda, c'è una data fondamentale nella storia della televisione italiana, che è quella del 25 dicembre del 1970. In quel 25 dicembre, cioè la sera di Natale, la RAI trasmise in prima serata Il Clown di Federico Fellini, che aveva prodotto, era una RAI che produceva i film di Fellini e non aveva nessun problema a mandarli non solo in prima serata, ma nella prima serata della sera di Natale. Come si dice, erano altri tempi, però insomma, forse Minoli, guardare anche a quei tempi non sarebbe proprio sbagliato del tutto, senza nostalgia, ma sapendo, insomma, che cercando di capire cosa può fare e cosa ha fatto un servizio pubblico. Scusa Minoli, so che tu sei radiofonico adesso, come dici tu, e non più televisionario, però io vorrei ripescarti come televisionario e ho una domanda per te. Fammi la domanda. No, la domanda è la seguente: ma perché le serate tematiche, come nel caso di Fellini, sono sempre più difficili da programmare nella RAI, perché, in particolare? Perché sono difficili da programmare nella RAI di oggi? Non lo so. So che sono state qualcosa di fatto spessissimo, ricordo grandi serate tematiche di Enzo Biagi, film, più dossier, più inchieste. Ecco, perché non si fa più ricordo Massimo Fichera, che progettava la seconda rete, spessissimo, almeno una volta al mese, in modo tematico, ma c'era anche, perché c'era la prevalenza... Beniamino Placido, Per una ragione molto semplice, che c'era un potere reale riconosciuto alla parte editoriale dell'azienda. Oggi chi ha responsabilità editoriale conta molto, molto meno. Comandano i manager che fanno conti, che riorganizzano, ma la parte editoriale è molto sottovalutata e gli uomini di prodotto sono sempre meno. E questa, quindi, la progettazione editoriale ha un pochino di deficit, ma cambierà sicuramente, perché leggo delle interviste, leggo delle interviste in cui mi sembra di capire che l'intenzione sia di rivalutare la parte editoriale. Non è che posso fare uno spot al Foglio, il mio giornale. Prego. C'è un trattato di estetica televisiva, non dico chi è l'autore, comunque ogni settimana c'è una puntata di estetica TV. Ma chi sarà l'autore? Non lo sappiamo. Comunque professore... il giornale è Il Foglio. Spegni fuoco, si chiama Maria, spegni fuoco. No, scusa, però, Giovanni, però c'è un'altra cosa che mi colpisce particolarmente della televisione, cioè che si è lasciato il campo, se siamo in regime di competizione, proprio alle cose monotematiche, al satellite, agli altri canali digitali. Ti faccio un esempio: Sky ha un canale di fatto dedicato solo a 007. Ora, lascia perdere, io sono fanatico e va bene, ma perché lasciare? Ma perché l'equilibrio fra i canali tematici e i canali generalisti, vero professore, è un equilibrio ancora da trovare e da studiare. Per adesso si sono lanciati per quello che riguarda la RAI, ma poi trovare un equilibrio, che deve essere prima di tutto un equilibrio negli investimenti, naturalmente. Però forse se le generaliste imparassero qualcosa dalle tematiche, questo è il grande tema, insomma, no? Se le generaliste guardassero le tematiche anche ovviamente come concorrenza, ma anche come modello, visto che le tematiche sono quelle nuove, forse un passettino avanti si farebbe. Non dico di diventare tutte tematiche, però il grande patrimonio che le tematiche hanno messo in campo in questi ultimi 10 anni forse potrebbe insegnare qualcosa alle generaliste. Ecco, professore, per chiudere, Claudio da Roma dice una cosa molto provocante: l'odioso, ingiusto, indecente canone stava sulla 7, con la gabbia, beh, speriamo che resti ancora un po' sulla Rai. Grazie e appuntamento a domani.